Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Distanziamento fisico e temperature più alte rallentano la circolazione del SARS-CoV-2. Questa è la conclusione della ricerca pubblicata sul Journal of Translation Medicine, che commentiamo a Obiettivo Salute con il professor Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di ricerca di statistica medica ed epidemiologia molecolare all'Università Campus Biomedico di Roma, che ha preso parte allo studio insieme al gruppo del professor Robert Gall, virologo e immunologo americano, co-scopritore dell'HIV. Professor Ciccozzi, buongiorno. Partiamo dai risultati della ricerca. Buongiorno a voi. Grazie per questa opportunità. La ricerca è stata molto complessa, ma ha dato ottimi risultati. Noi abbiamo utilizzato come proxy la latitudine, quindi il famoso quarantesimo parallelo, quindi ci siamo basati su questo e sui dati di mortalità. Abbiamo analizzato due mesi, marzo ed aprile, marzo un pochino ancora sotto l'influenza invernale ed aprile sotto quello primaverile. Bene, a marzo non abbiamo trovato nessuna correlazione tra temperatura e tasso di mortalità, cioè era abbastanza omogeneo, non c'era nulla che facesse intuire che questa temperatura potesse influire. Ad aprile no, ad aprile le cose sono andate diversamente. Ad aprile avevamo proprio questo quarantesimo, la latitudine al quarantesimo parallelo, insomma, che divideva in due fasi ben distinte la temperatura più alta e la temperatura più bassa. Abbiamo visto che c'era una correlazione inversa con i tassi di mortalità e l'aumento della temperatura, cioè dove la temperatura era più alta si moriva di meno. Quindi diciamo che questo virus, in qualche modo, la temperatura alta gli dà fastidio. Professor Ciccozzi, un'estate al mare, cantava Giuni Russo, come sarà l'estate al mare 2020? Sarà, io credo e sono ottimista, una buona estate. Il caldo ci aiuta, ci aiutano le distanze, ci aiutano le mascherine. Questo significa che dobbiamo portare la mascherina e stare a distanza. Certo, non prendere il sole con la mascherina, per carità, perché sarebbe assurdo, però portarla con noi. I lettini già si sanno quali sono le condizioni, si mettono a certa distanza. Se dobbiamo andare al bar o al ristorante, ci alziamo, ci mettiamo la mascherina e andiamo al ristorante, dopodiché la toglieremo per mangiare o per bere il nostro caffè. Sarà una vita tranquilla, normale, come sempre. Portiamoci paletta e secchiello e andiamoci a divertire al mare quest'estate. Grazie al professor Massimo Ciccozzi per essere stato con noi. Per oggi è tutto. Le nostre interviste a tu per tu oggi insieme al dottor Attilio Speciani sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Parleremo delle scelte alimentari che danno forza al nostro sistema immunitario, ma anche al controllo del diabete con strategie molto semplici. Vi aspetto e non mancate una buona giornata da Nicoletta.